Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sono 17:08, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Buonasera da Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, qualche ripercussione, analisi dopo il G7 dei ministri economico-finanziari che si è tenuto a Roma. Alcune critiche, c'è chi ha detto che il comunicato è stato troppo debole, insomma le preoccupazioni ci sono tutte. Vedremo se poi, al di là delle dichiarazioni di intenti, degli appelli al non cadere nella trappola del protezionismo nonostante una crisi pesantissima, se qualche misura concreta è stata presa oppure no, nel giorno in cui, tra l'altro, dal Giappone, questo sarà il tema della seconda ora del programma, arriva un dato oggettivamente così da far tremare i polsi. Il PIL giapponese nell'ultimo trimestre dell'anno scorso, chiaramente, cioè 2008, ha fatto un meno 12,7%, cioè un meno 13% rispetto al trimestre dell'anno, allo stesso trimestre del 2007. E quindi la velocità, o meglio la frenata con cui il Giappone entra nel 2009 è fortissima, tant'è che poco fa il ministro delle finanze giapponese ha detto, anzi non è il ministro delle finanze giapponese, un po' alticcio secondo alcuni media, ma il ministro alle attività produttive ha detto che il Giappone si sta trovando nella peggiore crisi dal dopoguerra, chiaramente dalla seconda guerra mondiale. Complessivamente l'economia nipponica nel 2008 ha fatto un meno 0,7%, che è comunque il primo calo in 9 anni. Parleremo di Giappone anche perché quello del Giappone è un caso storico. Fino al 2002 si era beccato 10 anni di tassi zero, quindi costo del denaro zero, ma economia ferma. Dal 2002 era riuscito a ripartire e adesso sembra tornato e precipitato in una recessione, e ricordo che il Giappone resta la seconda economia del pianeta. Poi, per quello che riguarda l'America, altre novità sulla task force per salvare il settore auto. Parleremo anche della multa che l'antitrust in Italia ha dato, ha affibbiato a Vodafone e Telecom, 500.000 euro a testa. 349-238-6666 resta il numero per i vostri sms. La borsa come sta andando? Beh, l'America oggi è chiusa, per cui non c'è il riferimento, qualora fosse un riferimento, di Wall Street. Parigi perde l'1%, Francoforte pure, Nasdaq, Londra meno 0,75%, male Milano, ma non tanto sul Mibtel che perde l'1%, quindi l'indice complessivo di tutta la borsa italiana, ma sull'S&P MIB, ossia l'indice che raggruppa i titoli a principale capitalizzazione, quelli più grossi, lì il calo è dell'1,8%, e il motivo si chiama oggi, o meglio anche oggi, Unicredit, che di nuovo sta soffrendo pesantemente in borsa, è scesa di nuovo a quota 1,2 euro per azione, meno 8,5%. Adesso racconteremo anche che cosa stia affossando oggi Unicredit. UbiBanca meno 5,7 e poi Banco Popolare meno 3,90, Intesa e Generali meno 3,6, quindi male oggi tutto il settore bancario e anche assicurativo, visto che Fondiaria perde il 3, Bulgari perde il 4%, Fiat il 2%, Telecom Italia il 2,85%. Bene invece, o meglio, il netto recupero dopo i pesanti cali della settimana scorsa, Seat pagine gialle più 5,3, Snam più 2,5, l'automatica più 2, Eni più 1,3, Geox più 1%. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve, come sempre, in apertura del programma. Al di là del G7, adesso inutile che scriviate, subito ne parleremo adesso, tra brevissimo. Oggi si è temuto moltissimo in Gran Bretagna perché il titolo Lloyd's è arrivato a perdere quasi il 10% in borsa, tra il 7 e l'8% in alcuni momenti, perché HBOs di cui Lloyd's hanno il 43%, hanno il 30%, poi fusione completata avranno il 43%, ma insomma HBOs sembrerebbe di nuovo in difficoltà. Adesso Lloyd's perde una cosa molto più modesta, lo 0,5%, e comunque i Lloyd's hanno annunciato di prevedere perdite complessive per 11 miliardi di euro per quello che riguarda la controllata HBOs, che si è comprata lo scorso 18 settembre. Lloyd's se l'era comprata. HBO sta per Halifax Bank of Scotland, pagandola 22 miliardi di dollari. E poi si è scoperto che HBO era pesantemente esposta verso i prodotti ormai tutti chiamati tossici. Si è ipotizzato oggi sui giornali britannici addirittura una nazionalizzazione dei Lloyd's, però insomma esclusa, poi smentita dal portavoce del ministro Gordon Brown. E ricordo che il governo britannico è già proprietario sia di Royal Bank of Scotland, che di fatto proprietario, che di Northern Rock e anche una società minore come Bradford Bingley. In Germania invece la cancelliera tedesca Angela Merkel non ha escluso l'esproprio delle azioni della banca di credito tedesca in crisi, Hypo Real Estate, per di fatto nazionalizzarla. E Hypo Real Estate ha già ricevuto dal governo tedesco 102 miliardi di euro tra garanzie sul proprio debito, quindi non è che proprio li abbia tirati fuori, ma garantisce sul debito da 52 miliardi, e invece soldi che ha messo dentro 50 miliardi. E ha detto, insomma, la Merkel in un'intervista ha detto: di fronte a crisi straordinarie occorrono soluzioni straordinarie. Questo non fa bene a UniCredito, che Germania comunque controlla Hypo Vereinsbank, ma non far bene a UniCredito, così arriviamo anche al tema di borsa di oggi, c'è la vicenda della debolezza che da diversi giorni colpisce un'altra banca controllata da UniCredito, la polacca Bank Pekao. E comunque il fatto che UniCredito sia così esposta, secondo alcuni operatori sovraesposta nell'est Europa e in Germania, la renderebbe più esposta anche alle svalutazioni che stanno arrivando in quei paesi. Del Giappone abbiamo già detto, ne parleremo nella seconda ora del programma. Ancora una notizia prima di aprire con il lascito dei G7. L'amministrazione Obama ha creato a questo punto la task force per guidare la ristrutturazione dell'industria automobilistica. Non vi sarà, come inizialmente ipotizzato, lo zar dell'auto, ma a guidare la task force saranno da un lato lo stesso segretario del tesoro Timothy Geithner, ma anche Lawrence Summers, che è il grande consigliere economico di Barack Obama. Dopodiché la General Motors oggi ha fatto sapere dall'America che l'economia europea si trova in una fase di grave rallentamento e le vendite in calo costringeranno General Motors ad ampliare la ristrutturazione, quindi i tagli, diciamo, tutta della sua divisione europea, più di quanto non precedentemente ipotizzato. Tra l'altro non c'è stata nessuna conferma di alcune indiscrezioni di stampa secondo cui General Motors starebbe per chiudere tutti gli stabilimenti di produzione in Europa. In Europa ricordo che GM è proprietario del marchio Opel e del marchio Saab. Il governo tedesco e anche quello svedese hanno già messo sul piatto 1 miliardo di euro a testa per sostenere le produzioni industriali. Nel caso specifico poi la Opel ha 4 stabilimenti in Germania per un totale di 25.000 occupati e altri stabilimenti della Opel si trovano in Francia, Belgio, Austria, Polonia, Portogallo, Spagna, Turchia, Ungheria. Più modesto invece il ruolo e anche i numeri della Saab, che ha 5.000 dipendenti in 3 impianti, tutti in Svezia. Nel frattempo la BMW ha varato una nuova organizzazione dei turni di lavoro nell'impianto di Oxford, dove viene prodotta la Mini, e per far fronte alla crisi economica praticamente nella fabbrica inglese si passerà da 3 a 2 turni di lavoro, quindi si lavorerà 5 giorni a settimana contro i 7 attuali. con il risultato che 850 posti di lavoro a termine, contratti a termine, verranno tagliati. E vabbè, dobbiamo in qualche modo prepararci, o se non siamo già preparati, a notizie del genere, perlomeno da qui a giugno. Vedremo se poi dopo l'estate qualche segnale in controtendenza arriverà, come molti si augurano, sperano, alcuni stimano, cioè che con la fine del 2009, nell'ultimo trimestre, arriverà qualche segnale di un 2010 migliore. Però nervi saldi per i prossimi mesi, perché la crisi si è trasferita a pie pari da finanziaria, dal mondo finanziario all'economia, e queste saranno, purtroppo, questi saranno i bollettini di questa crisi. Venerdì e sabato di questo hanno parlato i ministri economico-finanziari dei 7 paesi principali al mondo a Roma. Entriamo subito nel tema. Prima però, come stiamo facendo da oggi, da tutt'oggi, continueremo a fare nei GR, un aggiornamento con Daniele Biacchessi, in collegamento con noi, che sta seguendo le elezioni sarde. Daniele, abbiamo il dato definitivo a questo punto sulle affluenze? Sì, 67,58%. Questo è il dato definitivo. Nel 2004 aveva votato il 71,2% degli aventi diritto, quindi un calo del 3,62%. Sassari e Nuovo, le province dove si è votato di più, è in corso dalle 15 lo spoglio delle schede. Probabilmente innottata il nome del nuovo presidente della regione Sardegna. Daniele, fammi fare una domanda a questo punto. 67% è un dato più o meno alto rispetto alle ultime elezioni regionali in Sardegna? Ma diciamo che il calo tra il 62% era già abbastanza stimato. Sulle politiche, cioè sulle ultime politiche, c'è comunque un dato ancora peggiore, perché si andava intorno al 76-77%, quindi sicuramente un bel pezzo consistente della Sardegna non è andato a votare. Grazie per gli aggiornamenti a Daniele Biacchessi. Noi ripartiamo invece con il nostro primo tema di approfondimento, ossia il vertice dei G7. Insomma, avete letto di tutto da questo vertice, oltre al ministro delle finanze giapponese palesemente ubriaco secondo i media nipponici. Poi ne parleremo. Lui sostiene che ha preso delle medicine, in Giappone sostengono che invece abbia il vizio del sake. Ma abbiamo visto soprattutto le dichiarazioni del neo ministro dell'economia americano, del segretario del tesoro Timothy Geithner, e non solo, anche quelle del nostro ministro Tremonti. Saluto intanto, per averci raggiunto in collegamento, l'economista Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, che ha scritto un pezzo, un fondo molto critico sul G7 sulla Stampa. Buonasera professore. Buonasera a lei. Allora, ascoltiamo intanto uno dei passaggi di Geithner sul come uscire tutti assieme da questa crisi. Dobbiamo dare il via al processo per una vasta riforma del sistema finanziario, in modo da non affrontare in futuro una crisi di tale gravità. È una responsabilità che spetta ai diversi governi, ma dato che i nostri mercati sono globali, gli sforzi non possono essere efficaci senza una cooperazione sempre più forte a livello internazionale. Voglio sottolineare che continueremo a sostenere le importantissime azioni in atto in questo momento a livello di G7, G20 e in tutti gli altri importanti contesti internazionali. Voglio anche sottolineare quanto sia importante continuare a lavorare insieme per ridurre la vulnerabilità del sistema finanziario, soprattutto per chi ha cercato di abusarne per scopi illeciti. L'economia mondiale attualmente sta fronteggiando enormi sfide, ma i governi stanno rispondendo a queste sfide con sempre maggiore forza. Si tratta di azioni fondamentali per gettare le basi per la ripresa e devono essere sostenute in modo proporzionale alla gravità della crisi. That is commensurate with the severity of the crisis. Questo è l'appello, l'invito del ministro dell'economia americano, il quale ha anche detto che tutti i paesi si impegnano al commercio libero, quindi attenzione a non cascare nella trappola del protezionismo. Anche il nostro ministro Tremonti ha parlato di protezionismo. Ascoltiamo questo passaggio nella conferenza stampa. La parte del comunicato relativa al commercio contiene una condanna, una valutazione fortemente negativa contro il protezionismo. Credo che sia oggettivamente un pericolo. Credo che sia un pericolo non solo per le economie fortemente basate sull'export, anche la nostra economia, l'economia italiana è fortemente basata sull'export e quindi è fortemente interessata a contrastare fenomeni di protezionismo, ma in ogni caso è negativo in assoluto per le dinamiche non solo economiche ma politiche, per gli effetti di reazione e di progressiva aggressività che il fenomeno comporta. Non credo che le formule finora utilizzate nel mondo siano per ora pericolose o indicative di tendenze pericolose. Per quanto mi risulta, ma non è di mia competenza, allo slogan politico BAI corrisponde però anche l'affermazione di impegno a mantenere i principi e gli obblighi derivanti da World Trade Organization. Allora, professor Daglio, primo, due aspetti principali mi ho notato in questo vertice: l'appello contro il protezionismo e poi invece l'altro appello, nuovo ordine mondiale, nuove regole mondiali, con il governatore Draghi che ha detto nel frattempo le banche tirano fuori tutti gli asset, tutti i prodotti tossici, anche perché sta diminuendo la velocità del peggioramento dell'economia, per cui potremmo anche uscirne, ma occorre che si faccia pulizia. Partiamo dal primo. Lei era molto critico nel fondo della stampa che citavo. Non ritiene che questi appelli al non protezionismo abbiano qualche effetto? Mi sembra che siano il massimo dell'ipocrisia, perché dobbiamo intenderci su che cosa si vuole denominare protezionismo. Se sono tariffe doganali, allora tutti con orrore dicono che ci vuole il libero commercio, però gli stessi governi poi danno finanziamenti facilitati alle loro industrie, che sono una forma indiretta ma efficacissima di protezionismo. Mi riferisco in particolare ai francesi. In secondo luogo mi riferisco agli americani, perché il filone protezionista è molto forte in questo senso, hanno dato una barca di soldi all'industria automobilistica, questo non è protezionismo, certo che lo è. E poi mi riferisco agli inglesi, dove abbiamo un mondo del lavoro che sostanzialmente rifiuta l'occupazione degli stranieri, anche questo è una forma di protezionismo, quindi di che cosa stiamo parlando? In generale è chiaro che ogni paese poi tende a difendere i propri asset, i propri... Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che a parole dicono tutti, cattivo protezionismo, poi sotto banco lo fanno tutti quanti. E quindi lei non sembra particolarmente entusiasta da questo comunicato così pro forma. Le chiedo... In realtà la politica deve anche rispondere a un'opinione pubblica, cioè io capisco benissimo il ragionamento dell'economista, ma quando tu hai poi migliaia di persone che rischiano di perdere il posto di lavoro, è chiaro che vai a garantire le banche, vai a garantire le società che producono automobili, vai a garantire tutto l'indotto. Non è normale che la politica reagisca così? No, direi che la sua è un'affermazione grave, questo è prendere in giro l'opinione pubblica, non informarla. Dovremmo dire francamente all'opinione pubblica che un pizzico di protezionismo lo facciamo e che questo serve, che forse è il male minore nel breve e medio periodo, perché sì, è un venir meno della formula perfetta del libero commercio, però di fatto può salvare l'essenza di tutto questo. Che ci dobbiamo preparare a gestire una crisi, non è che ne usciamo domani mattina da questa crisi, quindi per gestirla uno degli strumenti, se usato bene, quindi con misura eccetera, può essere in alcuni casi la protezione della produzione nazionale o comunque europea nel nostro caso, americana nell'altro. Però lei dice che questi governi lo devono dire chiaramente. Domanda, se poi questo più o meno capiterà, l'Italia rischia di essere il paese più debole, perché noi possiamo mettere meno soldi sul piatto del nostro sistema produttivo perché abbiamo questo debito e questo deficit da tenere sotto controllo, quindi non possiamo permetterci di aprire troppi cordoni della borsa come conti pubblici, mentre altri paesi, la Francia che lei citava, la Germania, la Gran Bretagna, possono dare robuste iniezioni Oggi il Giappone ha annunciato un altro piano da 140 miliardi per aiutare l'economia. Possono dare robuste iniezioni di soldi al sistema produttivo? Assolutamente sì. Direi che ci sarà una enorme concorrenza sui mercati finanziari da parte dei vari governi, i quali tutti emetteranno dei titoli per finanziare le loro promesse, e l'Italia rischia di pagare dei tassi di interesse più alti degli altri, proprio perché è già molto indebitata. Di qui l'interesse italiano che le misure di sostegno siano a livello europeo. Indirettamente noi ne beneficiamo, per esempio le misure di sostegno all'auto dell'Europa, che sono quasi tutte, perché è stato così concordato, nel senso dei bonus ai compratori, non discriminano tra i produttori dei vari paesi. Quindi giusto. La Fiat, tanto per fare il solito esempio, beneficia dei bonus che ci sono in Germania e in Francia, così come Volkswagen e Renault beneficiano del bonus che c'è in Italia. Finché così mi sembra un modo ragionevole di gestire le cose, ma non diciamo che il mercato sia totalmente libero, dobbiamo in qualche modo in questo periodo di emergenza cercare di guidarlo un poco. Allora, altro aspetto che era emerso, le nuove regole per il nuovo ordine mondiale e la montata di prodotti tossici ancora presenti. Ascoltiamo un passaggio molto breve del ministro Tremonti proprio sul deficit di regole e il nuovo ordine mondiale. L'assunzione che in questo contesto, nel tempo presente, nella situazione presente, c'è in giro per il mondo un deficit di fiducia tra le cause della crisi, e c'è anche, forse una delle principali cause della crisi, un deficit di regole. Se il mercato è globale, l'ordine legale deve avere a sua volta una uniformità globale. La regolamentazione non è limitata al settore finanziario, ma deve essere estesa a molte aree dell'attività economica. Allora, professor De Aglio, se a questo uniamo anche l'appello di Mario Draghi nella sua doppia veste di governatore della Banca d'Italia e presidente del Financial Stability Forum, ha detto le banche mondiali tirino fuori tutti gli asset tossici che ancora tengono in pancia, voglio dire, i governi proprio per queste difficoltà non potrebbero, invece che solo garantire il debito bancario, salvare le banche, nazionalizzare le banche, parlo dell'estero soprattutto, non potrebbero obbligare le banche? Obbligare a fare che cosa? A tirare fuori tutto, a contabilizzare tutte le svalutazioni. Ma, ecco, io le devo dire che sono rimasto allarmato e sorpreso da quello che ha detto il governatore Draghi. Il governatore Draghi è persona molto responsabile e pesa molto le parole. Quindi questo appello fa presumere che ci siano ancora delle fortissime aree di oscurità nei conti delle banche. E francamente non me l'aspettavo, perché a questo punto le banche avrebbero dovuto, con le perdite che hanno denunciato in questi mesi, che gli hanno mangiato un buon due terzi del capitale in America, da noi le perdite sono state molto poche invece, ma insomma si poteva pensare che fosse finito, invece chiaramente non è così, e quindi il fatto che dobbiamo ancora mappare la tossicità è abbastanza grave, cioè non lascia prevedere che ne usciamo proprio domani mattina. So che lei ci deve salutare, però vorrei un'ultima risposta molto breve. Da un lato, se avesse ragione Draghi, lei sarebbe d'accordo o no nel obbligare a livello chiaramente americano, britannico, tedesco, eventualmente anche italiano, le banche? Dall'altro, se è d'accordo con quanto scrivono alcuni ascoltatori al 349-238-6666, che l'Italia, pur avendo avuto per vari motivi banche che non parlavano l'inglese, dice Tremonti, pochi danni, poche esposizioni, tranne forse i principali gruppi, in questa massa di prodotti tossici, rischia poi di pagare un conto molto più salato per questa crisi, di quanto non sia sua responsabilità, diciamo. Ma direi che sulla crisi noi siamo relativamente meno peggio posizionati di altri, quindi un conto lo pagheremo anche per errori altrui, ma non credo che sarà molto, molto alto. Quindi in questo senso forse dobbiamo stare abbastanza tranquilli, perlomeno, come dico, nell'ottica del meno peggio. Sul resto le banche hanno tutta questa massa di titoli che evidentemente non compare nei bilanci perché non è direttamente detenuta dalle banche ma da società controllate dalle banche, ma che però hanno meno del 50%, quindi non va a finire nei consolidati. E su questo è importante la dichiarazione di Geithner, questo è l'unico vero risultato, cioè gli americani non sono più pregiudizialmente contrari a una vera collaborazione, che vuol dire che tutti devono aprire i loro libri, anche gli americani ai non americani, perché finora gli americani avevano di fatto rifiutato un controllo internazionale sulle loro banche. E quindi l'obbligo, poi come si direbbe in linguaggio tecnico, a consolidare, a mettere a bilancio anche perdite, svalutazioni che non appartengono a te come soggetto X, ma alla tua controllata Y, e poi prima o poi dovrai portarle a bilancio, è inutile giocare le tre carte. Grazie Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, alcune risposte alle vostre, ai vostri sms al 349-238-6666, poi il caso in primo luogo Unicredito in borsa e le multe a Vodafone Team, nella seconda ora invece parleremo di Giappone. Alcuni di voi ci chiedono se è vero che l'ex numero uno di Lehman Brothers, Dick Fuld, che ha percepito 50 milioni di euro, se vado a memoria, solo come ultimo stipendio, più non so quanti miliardi accumulati in anni per portare poi Lehman al fallimento, se è vero che recentemente ha ricevuto un pugno in palestra da un comune cittadino. No, la cosa è stata un po' diversa. Quando Lehman Brothers fu dichiarata fallita, Fuld stava facendo jogging in palestra e un normale cittadino gli ha tirato un pugno in faccia, perché insomma, evidentemente era ora io non so se questa sia la punizione migliore per gli ex dei dell'universo, penso proprio di no. Diciamo, le vicende serie si risolvono in maniera seria, andando a investigare responsabilità, condannando, obbligando a risarcire se ci sono responsabilità personali e oltre che per il ruolo rivestito, ma insomma non con la violenza. Nel frattempo, questa dovevamo immaginarcela, la CNBC starebbe pensando a un reality show, non abbiamo ben capito ancora come, ma insomma con gli ex dei dell'universo, master dell'universo, signori dell'universo caduti in disgrazia, The Severe Life, la vita resa diciamo difficile dopo che sono passati da bonus a sette cifre e adesso invece fanno la fila all'ufficio di collocamento, un reality show in cui gli ex dei dell'universo starebbero in una casa, non ho capito se come Grande Fratello o in un altro modo. Non avevamo dubbi che già insomma Oliver Stone sta lavorando su un film, che anche i grandi network americani si sarebbero tuffati su questa vicenda, che prendiamola almeno così, può portare certo a un reality show, magari obbligarli a vivere con $1,000 al mese, anche quello potrebbe essere un esperimento, quello che prende un normale dipendente, operaio o un pensionato, e vedere come se la cavano. Comunque i mercati finanziari, scusatemi in anticipo per questa caduta un po' populista. Meno 1% Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, meno 1,2% Parigi, infatti meno 1% anche Francoforte, e poi Londra che ha perso l'1,25%. Peggiore, nettamente peggiore il dato sull'S&P MIB, quindi sull'indice dei titoli maggiore capitalizzazione, meno 1,81%. I motivi si chiamano Unicredito meno 8,4%, oggi scende a 1,2 euro per azione. UbiBanca meno 5,80, scende a 7,88 euro per azione. Male anche Generali, meno 3,4 come Intesa San Paolo. Fondiaria meno 3,1. Bulgari meno 3,6. Sul fronte assicurativo però e bancario oggi non è stata una bella giornata né per Generali né per Fondiaria, ma anche per il Banco Popolare che ha perso il 2,6%, Unipol meno 1,5%. Buona la giornata invece, vista la situazione, per il Monte dei Paschi che ha chiuso invariato, e poi per la Popolare di Milano che ha guadagnato l'1,35%. Molto buona, cambiando settore, per Seat Pagine Gialle che ha recuperato dopo una settimana da dimenticare, ha recuperato il 7% oggi in borsa. Andiamo con ordine e allora con Guido Maurino di Radio Colle Sole 24 Ore. Buonasera Guido. Buonasera a voi. Wall Street è chiusa, quindi non esistono indici americani oggi, cioè il President Day. Partiamo da Unicredito. Abbiamo visto la debolezza del Banco Pekao, che l'ha controllata polacca, abbiamo visto le difficoltà su altri gruppi bancari tedeschi che non c'entrano direttamente con UniCredit, ma insomma Angela Merkel oggi non ha escluso l'esproprio delle azioni per Hypo Real Estate, dove lo Stato tedesco ha già messo 50 miliardi, più ne ha messi come garanzie altri 52. E i motivi cosa sono? Di nuovo Est Europa, Germania, Austria per UniCredit? Sì, per UniCredit i motivi, come dicevi tu, sono soprattutto le incertezze sull'Europa dell'Est, in particolare anche la difficile congiuntura che stanno vivendo queste economie. Dicevi prima tu delle difficoltà in Polonia. La Polonia anche sul fronte macroeconomico, ad esempio, oggi ha registrato che la moneta polacca, lo zloty, è sceso al livello più basso degli ultimi 5 anni. In Russia la produzione industriale è crollata del 16%. Questo fa dire agli analisti che difficilmente UniCredit riuscirà a ricavare dall'Europa dell'Est quello che pensava, cioè il gruppo è stato costruito in questi anni anche puntando molto sull'Europa del centro e dell'est. In questa fase la recessione sta colpendo il centro e l'est Europa come e forse anche di più di quello che sta colpendo l'Europa, diciamo, occidentale, per cui oggi UniCredit su questi timori ha perso, come dicevi tu, l'8,4%, chiudendo a 1,21 euro. Allora, su questo alcune domande degli ascoltatori. È vero, per anni, anche in questo programma, avete sentito dire da molti ospiti che per le banche italiane era importante internazionalizzarsi e quindi uscire da una dimensione solo nazionale. Non ho nulla in contrario su questo, cioè resta secondo me un principio, così come per le imprese è importante aumentare la capitalizzazione e aumentare anche la rete commerciale, per una banca è importante non gestire un unico mercato. Dopodiché quello che è successo alle banche estere soprattutto non è dovuto, o quello che sta succedendo a UniCredit, a un errore a mio avviso, perché ha sbagliato a internazionalizzarsi, hanno sbagliato, diciamo, le banche estere a comprare certi prodotti, ma il principio del essere presenti su tanti mercati è un principio a mio avviso ancora corretto. Comunque chiudo la risposta, andiamo su altri titoli. Molto male UniCredit, ma male anche altri gruppi bancari, tranne Popolare Milano e Monte dei Paschi, tutti con il segno meno, UbiBanca addirittura meno 5,80. Sì, come dicevi tu, comunque c'è una situazione generale anche di incertezza che permane sul settore bancario. UbiBanca, ad esempio, ci segnalavano che è stato uno dei titoli che in questi mesi ha retto meglio alla crisi, per cui ha anche perso meno rispetto agli altri istituti. Gli analisti, eccetera, vedono in questa fase minori potenzialità di upside ulteriori, per cui per la quinta seduta consecutiva UbiBanca ha ceduto, e anche oggi ha ceduto in modo abbastanza pesante, andando a perdere il 5,79%. Ancora degli altri bancari abbiamo parlato. In positivo invece Seat Pagine Gialle. Di nuovo in diretta per parlare di borse e poi delle multe a Vodafone e Telecom Italia. Alcune risposte al 349-238-6666. Allora, molte domande sull'eventuale reality show della CNBC con gli ex dei dell'universo. Non abbiamo confuso, cioè severed significa spezzato in inglese. Abbiamo detto che le loro vite, più che spezzate, sono rese, e giocavamo con le parole, molto severe, perché queste persone sono passate da bonus a 7 cifre alla fila all'ufficio di collocamento, e quindi è più che vita spezzata, diciamo, è un po' troppo, vita più severa e più dura, a mio avviso sì. Secondo aspetto, anche lì, attenzione, è una battuta fino a un certo punto, forse viste le abitudini di questi personaggi che non si muovevano se non con il jet privato aziendale, pagavano $1.200.000 per rifare un ufficio, 1.700 euro per un cestino, ne abbiamo raccontate per settimane le cronache dall'Olimpo. Beh, forse la punizione peggiore potrebbe essere scendere sulla terra, provare a fare un anno con $1.000 al mese, magari col mutuo da pagare, magari con la scuola, magari senza assicurazione sanitaria, dico in America, e anche per l'Europa potrebbe essere uguale, più che dargli due o tre anni con la condizionale o impegnarli in cause che poi portano chissà dove, forse delle volte un po' come lavori socialmente utili per certi adolescenti bulli, anche per certi manager non sarebbero male, ma mi rendo conto che stiamo parlando di fantascienza. Andiamo avanti invece con la borsa. Seat in netto recupero. Sì, oggi come dicevi tu Seat ha finalmente recuperato parzialmente terreno, si tratta soprattutto di un rimbalzo che oggi ha portato il titolo a guadagnare il 6,97% e chiudere a 7,59 euro. Bisogna considerare innanzitutto che il titolo aveva perso oltre il 27% la settimana scorsa per una serie di notizie che si erano succedute dall'addio dell'amministratore delegato Luca Maiocchi ai dubbi sull'aumento di capitale da 200 milioni. Questa settimana un po' le cose sembrano schiarirsi, la società ha depositato in Consob il prospetto per l'aumento di capitale. Forse poi anche per le pesanti flessioni delle scorse sedute le case d'affari iniziano a guardare al titolo con un'attenzione un po' diversa. Goldman Sachs in particolare ha tolto il titolo dalla sua lista dei titoli da vendere e ha alzato il rating a neutral. Nello spiegare la sua decisione Goldman spiega soprattutto il fatto che comunque negli ultimi 12 mesi il titolo ha perso molto di più rispetto ai competitor e inoltre i conti presentati la scorsa settimana non sono stati giudicati migliori dell'attesa. Guido, andiamo rapidi, vorrei sapere bene oggi tutto il gruppo Eni, Snam più 2%, Eni più 1,1% e Saipem più 1,16%, ancora l'effetto dei conti con gli oltre 10 miliardi di utile diffusi a Londra venerdì scorso? Sì, è ancora soprattutto questo e in più il fatto che comunque tutti giudicano il gruppo Eni come un gruppo che può far fronte alla crisi a prezzi del petrolio bassi meglio rispetto ai competitor. Eh beh, complimenti a questo punto ai vertici, a Paolo Scaroni, se così giudica il mercato. Ultimo titolo, così passiamo al prossimo tema. Telecom Italia ha risentito della multa oppure no? In realtà non ne ha risentito troppo, anche se oggi ha comunque registrato una flessione del 3,14%, però diciamo che è stata una giornata in cui per tutti il giorno è andato così, non, almeno dalle sale operative non ci segnalano come questo abbia avuto ripercussioni sì, anche perché sul titolo. Ti ho detto l'ultima notizia, in realtà no, perché vorrei sapere se ci sono novità sui tacimenti. Ricordo che il titolo di tacimenti è stato sospeso dalla mattinata prima delle contrattazioni in borsa in attesa di una nota, convocato il consiglio di amministrazione di Talcementi, quindi gruppo Pesenti. Hanno convocato i consigli di amministrazione Italmobiliari, Italcementi e Saman Francais per valutare le linee guida di un progetto di riorganizzazione. Novità? Sì o no? Per il momento no, non ancora, stiamo aspettando. Grazie a Guido Maurino di Radio Corriere Sole 24 Ore. E allora, visto che ve l'avevamo anticipato, occupiamoci adesso brevemente, per carità, dell'azione intrapresa oggi dall'antitrust contro Vodafone e Telecom Italia. Che cosa è successo? L'antitrust ha sanzionato TIM e Vodafone con 500.000 euro ciascuno perché hanno modificato in maniera unilaterale e sistematica i piani tariffari dei vari clienti senza fornire adeguate informazioni al consumatore. L'annuncio tra l'altro è arrivato da Altro Consumo. La vicenda ce la racconta la nostra Valentina Furlanetto. Di euro complessivi di multa, così l'autorità per la concorrenza ha sanzionato il comportamento di TIM e Vodafone, colpevoli, stando al garante, di aver modificato contemporaneamente i loro piani tariffari senza fornire adeguate informazioni al consumatore. I rincari calcolati dalle associazioni dei consumatori andavano da 49 a 83 euro l'anno a cliente. Tuttavia l'antitrust non ha multato i due operatori telefonici per aver aumentato le tariffe, ma perché ha giudicato la comunicazione ai clienti ambigua e omissiva, quindi scorretta. Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo. Soddisfazione sicuramente sì, ma anche un po' l'amaro in bocca, perché queste sanzioni dell'antitrust da un lato arrivano sempre un po' in ritardo, e questo ha fatto sì che per 6 passamesi tutti i consumatori coinvolti abbiano pagato questi aumenti, e adesso, e questo è il secondo aspetto, si pone un problema di rimborsi, soprattutto in mancanza della famosa azione collettiva risarcitoria o class action che dir si voglia. Il rischio che questi profitti scorretti restino nelle tasche delle imprese è molto alto. Tutto ha inizio lo scorso agosto, quando sotto l'ombrellone un SMS fa sobbalzare sulla sdraio un cliente TIM. L'SMS avvisava il cliente che dal 9 di settembre sarebbero cambiati tutti i piani tariffari, con un aumento di 3 centesimi in più al minuto per 10 profili tariffari. Poco male, ha probabilmente pensato quel cliente, c'è sempre Vodafone. Invece no, proprio sotto l'ombrellone accanto arrivava un SMS con il quale Vodafone avvisava il suo cliente che avrebbe cambiato i piani tariffari dal 1 ottobre. In particolare Vodafone allineava a 16 centesimi lo scatto alla risposta di tutti i piani tariffari. Da qui la protesta dell'Associazione dei consumatori e l'intervento dell'autorità. Ma la multa ora avrà un potere dissuasivo sugli operatori? Ancora Martinello. Probabilmente no, perché i guadagni, che sono difficili da calcolare, ma sono sicuramente molto superiori a questo importo, parliamo sicuramente di svariati milioni di euro introitati dalle compagnie, però questo è il massimo che in questa situazione l'antitrust poteva dare in base alla legge. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per parlare, come promesso, di Giappone, in una giornata in cui, con Wall Street chiusa, le borse hanno perso mediamente 1 punto percentuale, in cui molto hanno perso i titoli bancari e a casa nostra soprattutto un Unicredit meno 8,4%. Nubi dense sull'economia giapponese. Oggi, o meglio ieri notte, il dato meno 12,7% del PIL giapponese tra ottobre e dicembre, cioè l'ultimo trimestre del 2008 rispetto al trimestre dell'ultimo trimestre del 2007, e meno 0,7% il PIL complessivamente nel 2008, primo calo da nove anni. E allora ci colleghiamo con l'inviato del Sole 24 Ore dal Giappone, Stefano Carrer. Buonasera. Sì, buonasera. O buonanotte, per meglio dire, visto l'ora tardissima a cui ti obblighiamo a stare. Allora, meno 12,7% il PIL ad ottobre, un dato drammatico, insomma, rispetto a un anno prima, quasi il 13%. Non capitava la contrazione, tra l'altro, rispetto al trimestre precedente, meno 3,3%, non capitava dal 74, ma comunque, per dare un'idea della situazione, secondo il ministro per le politiche economiche e fiscali giapponese, Kaoru Yosano, il Giappone sta attraversando la peggior crisi dalla fine della seconda guerra mondiale. La produzione industriale perde il 10%. Ti chiedo, è vero che il Giappone dal 2002 fino al 2002 ha vissuto 10 anni della cosiddetta stagflazione, cioè stagnazione economica e anche inflazione, più stagnazione economica e inflazione con tassi pari allo zero, ma dal 2002 era tornato a crescere come PIL. Tra l'altro il calo di quest'anno, del 2008, scusatemi, dello 0,7% è il primo da 9 anni. Che cosa è successo, visto che solo ad ottobre Nomura sembrava essere pronta a dare in soccorso a Lehman Brothers, grande gruppo bancario giapponese, Mitsubishi, identica manovra su Morgan Stanley, e poi in 3 mesi sono precipitati nella peggior crisi dal dopoguerra? Sì, in effetti la cosa è apparentemente sconcertante, nel senso che la novità ufficializzata oggi è che l'economia giapponese va 3 volte peggio di quella americana e più di 2 volte peggio di quella dell'Eurozona. Sembrava in autunno che Mitsubishi UFJ, il più grande gruppo bancario giapponese, era andata in soccorso di Morgan Stanley, e Nomura aveva acquisito i resti di Lehman Brothers. Sembrava che il Giappone, proprio perché le sue istituzioni finanziarie erano meno esposte alla crisi subprime, alla crisi dei derivati complessi, sembrava che il Giappone dovesse fare meglio degli altri paesi. Invece oggi è emerso, con un dato sul PIL dell'ultimo trimestre del 2008, che il Giappone è l'economia industrializzata che va peggio di tutte, perché il crollo del PIL è imputabile soprattutto al crollo delle esportazioni, perché secondo il modello asiatico, che è sempre più in crisi, l'economia è ancora troppo dipendente dall'export. La recessione si è fatta globale, quindi la domanda per le merci giapponesi, soprattutto i beni durevoli, è crollata. L'economia giapponese dipende troppo dalle esportazioni, i consumi restano deboli e quindi è una dinamica che contribuisce ad affossare il PIL. La cosa più grave è che il PIL del trimestre in corso, ormai, secondo gli analisti, è stimato in una contrazione che potrebbe essere anche peggiore di quella che è stata annunciata oggi, potrebbe essere anche del 13%, perché, come abbiamo sentito in tutte queste ultime settimane, le grandi aziende stanno riducendo drasticamente la produzione, stanno licenziando i dipendenti e questo ha degli effetti negativi anche sui consumi. Allora, un paio di precisazioni per quello che riguarda anche i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Attenzione, nel 2008 il Giappone ha avuto un calo dello 0,7% del PIL. Il meno 13% quasi è riferito all'ultimo trimestre del 2008 rispetto all'ultimo trimestre del 2007 ed è importante perché ci dice la velocità, o meglio la frenata, con cui il Giappone è entrato nel 2009. È un po' come per l'Italia, quando abbiamo visto la settimana scorsa che complessivamente nel 2008 abbiamo perso lo 0,9% del PIL, dato peggiore da 15 anni se non ricordo male, ma abbiamo visto che nell'ultimo trimestre del 2008 il nostro PIL ha frenato molto di più, ha frenato oltre il 2%, e questo è un dato che è ancora peggiore, è dagli anni 80 che non c'era una frenata così brusca. Sono due cose leggermente diverse, ma è importante soprattutto l'ultimo dato. Seconda risposta che dobbiamo, chiaro che alcuni di voi stanno così anche un po' scherzando sul premier, sul ministro delle finanze giapponese Soichi Nakagawa, che è sembrato essere palesemente ubriaco durante la conferenza stampa del G7 a Roma, ha sbagliato anche il dato sul tasso di interesse. Vabbè, non mi sembra il problema principale del Giappone, ma Stefano Carrer, anche oggi le polemiche, se riusciamo a dire in una battuta, su Nakagawa non sono mancate a Tokyo. Certo, le polemiche sono forti, l'opposizione ha chiesto le dimissioni, e su YouTube tutti guardano la performance del ministro a Roma, che sembra un po' rispecchiare la situazione della politica giapponese, cioè che sembra un po' in stato confusionale. Il ministro ha negato di essere ubriaco, ha detto che aveva bevuto del vino durante il ricevimento la sera prima, ma ha imputato il suo stato al fatto di aver preso una doppia razione di medicine contro il raffreddore. D'altra parte però l'ex premier Yoshiro Mori, che è un pezzo grosso del Partito Liberale Democratico al governo, stesso partito di Nakagawa, in fondo ha rivelato oggi quello che è un po' il segreto di Pulcinella della politica giapponese, cioè che Nakagawa in effetti tenderebbe ad alzare un po' troppo il gomito. Quindi molti si chiedono se sia così adeguato in un ruolo così importante, in un momento tanto delicato per il paese. Domani l'opposizione dovrebbe presentare alla Camera Alta, dominata dall'opposizione, una mozione di censura nei suoi confronti, che in passato ha portato alle dimissioni ministri che l'avevano ricevuta, ma Taro Aso per il momento ha detto che non intende fare a meno di un collaboratore che ritiene prezioso. In effetti Nakagawa è anche lui un pezzo grosso del Partito Liberal Democratico, è uno stretto alleato di Aso. Vabbè, insomma, forse l'abitudine al sakè rispetto alla Marone, ai Baroli, ai nostri Barbareschi, ai Brunelli, gli ha fatto un brutto scherzo. Pericoloso con queste cifre vederci doppio, perché insomma, già le cifre sono doppie quanto al crollo del PIL. Seriamente invece, Stefano Carrer, il fatto che tu citavi di una classe politica giapponese che sembri all'opinione pubblica essere un po' in preda allo sbandamento. Oggi Giappone ha annunciato un piano, comunque, che sta andando verso un piano per salvare l'economia da 170 miliardi di euro, una cosa grande quasi quello della Germania e della Francia messo assieme. L'Italia ha stanziato 5 miliardi per ora complessivamente. Come mai una critica del genere, che potrebbe arrivare poi tra l'altro alla cifra record di 840 miliardi di euro come manovra complessiva rispetto a quello già stanziato, una cifra seconda solo a quella americana. E perché tu dici che a quel punto la classe politica comunque sembri essere così allo sbando, nonostante piani così imponenti? È emerso che all'interno del partito di governo e lo stesso ministro delle politiche economiche, Kaoru Yosano, ha fatto capire che occorrerà una manovra addizionale. Qual è il problema? Che ci sono già state due manovre addizionali al bilancio statale, però una parte delle misure sono ancora ferme in Parlamento, perché la Camera Alta, cioè uno dei rami del Parlamento, è dominato dall'opposizione, che sta facendo resistenza perché chiede elezioni anticipate il più presto possibile. Inoltre le cifre vanno interpretate in una certa maniera, nel senso che i reali capitoli di spesa fiscale sono in programma per 12 mila miliardi di yen, quindi circa 110 miliardi di euro. Il resto, soprattutto questa ulteriore manovra addizionale che è emersa oggi, è molto aleatoria, nel senso che in Parlamento si sta anche discutendo del bilancio statale di previsione per l'anno 2009, che già prevede delle misure di stimolo all'economia. Non è chiaro se possano passare effettivamente in Parlamento questi provvedimenti. Al tempo stesso gli economisti, molti economisti, ritengono che lo spazio per un'efficacia delle misure che può prendere il governo giapponese è limitato, proprio perché l'economia dipende soprattutto dalle esportazioni e finché non riparte la domanda esterna potranno esserci delle misure per stimolare i consumi o per stimolare la spesa pubblica all'interno, ma non sarà sufficiente a invertire la tendenza. Staremo a vedere, perché comunque rispetto a quella americana e a quella tedesca sicuramente l'economia giapponese è meno cruciale per l'Italia, poi ne parleremo anche dopo le informazioni per chi è in viaggio, però insomma sono imponenti le cifre, imponente anche il raffronto del PIL del meno quasi 13% della peggiore crisi dal dopoguerra. Grazie intanto a Stefano Carrera, inviato su 24 ore a Tokyo. Di nuovo in diretta, ultima parte del programma, professor Carlo Filippini, direttore dell'ISESAO, Centro di Studi Economico e Sociali per l'Asia Orientale del Dipartimento di Economia e Politica alla Bocconi di Milano. Buonasera. Salve, buonasera. Allora, professor Filippini, noi abbiamo appena ricordato che il Giappone ha conosciuto un decennio terminato nel 2002 di stagnazione, in cui in realtà il reddito cresceva ma il PIL era fermo, non una recessione vera e propria. Ne era uscito nel 2002. In questi 6-7 anni qualcosa è cambiato o ha solo sfruttato la congiuntura mondiale? Perché il dato di oggi oggettivamente fa impressione, meno 12,7% in un paese dei G7, in un paese industrializzato, ancora non l'avevamo visto. È vero, una piccola precisazione, il meno 12,7% è il tasso annualizzato dell'ultimo trimestre. Per il 2008, per tutto l'anno, si prevede una diminuzione che potrebbe essere molto più vicina al meno 0,7. Sì, sì, questo l'abbiamo ricordato, che il 2008 è meno 0,7, ma è l'ultimo trimestre del 2008 rispetto all'ultimo trimestre del 2007 a fare meno 12, il che comunque resta il dato a due cifre mai visto in altri paesi e la dice lunga su come il Giappone è entrato nel 2009. Ma volevo capire, in questi 6 anni o 7 anni ha perso qualche occasione il Giappone per ristrutturare il suo sistema produttivo, visto che veniva da 10 anni di stagnazione? Ecco, diciamo così, in parte qualcosa è stato fatto e in effetti la ripresa della crescita dal 2002 in poi ne è un po' testimonianza, ma soprattutto direi il risanamento del settore bancario e del settore finanziario. Non dimentichiamo che Nomura ha acquistato parti della vecchia Lehman Brothers andata in fallimento. Nello stesso tempo non è stato fatto abbastanza, cioè ci si è basati sulle esportazioni, la vecchia via alla crescita che è un po' la caratteristica di tutti i paesi dell'Asia orientale, si è approfittato anche di uno yen molto molto molto debole per favorire appunto la crescita basata sulle esportazioni, quando da un lato la domanda mondiale è crollata per la crisi che conosciamo benissimo e dall'altro lato lo yen si è rivalutato molto contro l'euro, contro il dollaro, ma anche poi contro parecchie valute asiatiche legate al dollaro. le esportazioni non hanno più tenuto e la crescita giapponese ha avuto appunto questa battuta d'arresto. Sì, professore, puntare sulle esportazioni in realtà non è stata una caratteristica solo giapponese. La prima economia europea, la Germania, vive del suo export e lo vediamo adesso in che posizione si trovi. La terza economia o quarta economia europea, l'Italia, diciamo, quella poco di crescita che ha avuto in questi anni l'ha avuto grazie all'export. Però vorrei capire, pesa di più in questo bruttissimo dato giapponese la recessione in atto a livello mondiale, quindi la Cina che importa meno prodotti giapponesi, l'Europa, l'America, o pesa di più l'euro yen forte, forte contro il dollaro, forte contro l'euro, forte contro tutto? Direi soprattutto pesa di più la recessione mondiale, perché è quella che ha arrestato, diciamo così, la causa principale della battuta d'arresto delle esportazioni. Chiaramente avere un euro che si è rivalutato in un modo incredibile, pensiamo che solo meno di un anno fa ci volevano 170 yen per un euro, adesso ce ne vogliono 110, questo dà un'idea della rivalutazione dello yen. Chiaramente la rivalutazione così forte ha aggiunto colpo su colpo, anche se probabilmente ha meno importanza, è la recessione mondiale, la caduta un po' di tutti i mercati, no, che ha causato questa caduta anche del reddito giapponese. Quindi più, diciamo, la congiuntura, chiamiamola così, anche se sembra una crisi pesante a livello mondiale, che non il rafforzamento dello yen. Siamo in conclusione del programma, non potete chiedermi adesso delle cose sulla classe politica giapponese, già Stefano Carrera ha detto qual è la percezione dell'opinione pubblica al di là del ministro delle finanze più o meno Brillo. Grazie anche a lei, anche perché era importante chiarire che cosa è successo negli ultimi anni in un paese del genere. Quindi grazie a Carlo Filippini, che è docente all'ISESAO della Bocconi di Milano. Un'ultima nota che forse rischia di essere oggi la nota più positiva, perché anche oggi abbiamo iniziato bene la settimana. Domani con il Sole 24 Ore esce la guida ai bonus. Mi rendo conto che potrà non essere la soluzione della vita, ma ci sono dei bonus annunciati dal governo sugli acquisti, gli aiuti alle famiglie, per cui come combattere la crisi e anche risparmiare. Poi a mezzogiorno se ne occupa Deborah Rosciani con Salva Danaio, ma insomma tutti i bonus decisi dal governo nell'ultima misura anticrisi, domani assieme al Sole 24 Ore. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo dalle 17 in poi domani.